Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Il settore degli appalti pubblici in Italia vale l'8% del PIL, oltre 100 miliardi, e dà lavoro a 1,5 milioni di persone. Inutile negarlo, una calamita irresistibile per le organizzazioni mafiose. Secondo un dato diffuso pochi giorni fa dalla rivista Narcomafia, oltre 5.000 aziende non applicherebbero il codice antimafia previsto per appalti superiori a 150.000 euro e il 30% degli appalti totali avverrebbe senza gara. Per rispondere a questa situazione pericolosa, alcuni comuni hanno pensato che forse vale la pena di rafforzare la prevenzione. Il comune di Reggio Emilia ha pensato di sostituire la richiesta di certificato antimafia con l'informativa antimafia, che permette alla prefettura di effettuare un'analisi più approfondita. Proprio con la prefettura, il comune di Reggio ha sottoscritto un protocollo di legalità che modifica lo scenario degli appalti pubblici reggiani. Prima del protocollo si richiedeva il documento prefettizio se la soglia dell'appalto era superiore a 4.845.000 euro. Ora la soglia è stata abbassata a 250.000 euro. Per i subappalti si è passati da 250.000 a 50.000 euro. Il comune di Merlino, invece, 1.600 abitanti in provincia di Lodi, ha disposto un protocollo di legalità per tutte le imprese e le immobiliari che operano nel settore degli appalti privati. Grazie a questo protocollo, le imprese che intendono lavorare sul territorio di Merlino devono comunicare la composizione della società, compresa di casellario giudiziale dei titolari e dei soci, i bilanci degli ultimi 2 anni di attività, il numero e l'identificazione degli operai che operano nel cantiere e inoltre il numero di targa dei mezzi che vi transitano, l'elenco di tutti i fornitori e i subappaltatori, così come previsto dal giugno 2010 dal Viminale per il settore degli appalti pubblici. Basta non adempiere a uno di questi punti e la convenzione tra comune e impresa salta. Buona vita e a domani.